Sono venuto per dirti che forse hai ragione. Ti ho lasciato sparire tra le mie radici. Dedicavo il mio tempo a fabbricarmi il futuro, a costruire palazzi vuoti dove restare solo. E stasera entrando a casa tua ho guardato le pareti che hai riempito di noi, hai cosparso di noi. Domando se ti merito, sai, mentre osservo la tua fragilità e la tua nobiltà, mentre mi dici vai. Vorrei che tu sapessi che un'altra come te non ci sarà. Giocare con il mio futuro come una madre fa con un bambino. Mi hai lasciato godere di tutta la vita, di tutta la vita che io volevo. E stasera mentre tu vai via, quanta rabbia brucia dentro me dopo aver fatto che fosse la fine di noi. Io osservo la tua fragilità e pensare che eri la gioia mia, non mi dire che io per te ero quasi un dio. Vorrei che tu sapessi che un'altra come te non ci sarà. Anche nel cuore sono restato arrestato dalle memorie. Oggi ti lascio tutto il tuo futuro. Mi farà scordare noi.